day after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool. And he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. He never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Tell what he wants to do, and he never shows his feelings. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning. Operosità operosa di questo nostro laboratorio, dove incessantemente tutto accade e decade, da questo spazio immaginario e reale, comune e continuo, il centro sociale Jan Assen, che noi tutti investiamo con forme vive di saperi, di socialità e di amicizie trasformatrici, persistiamo ancora questa sera in un cut-up dei pensieri del mondo ad apprendere gli uni dagli altri. E dunque, care utopiste e cari utopisti, continuiamo a pensare. Perché, come ammoniva Hannah Arendt, quando tutti si lasciano trascinare senza riflettere, quelli che pensano si ritrovano allo scoperto e il loro rifiuto di giungersi agli altri diviene allora una forma di azione. Una forma di azione che potremmo definire con Jack London poetica tattica, dove i testi, i pensieri, le parole diventano quasi delle poesie di liberazione, degli esorcismi per astuzia, degli accordi di emancipazione comune, la cui ragione d'essere consiste nel tenere sotto scacco le potenze circostanti del mondo ostile. E allora, le domande che ci poniamo sono: l'arte può mettere in discussione la realtà instaurata e aprire dei passaggi verso una realtà divergente? Può, pur sfuggendo alla tentazione propagandistica, essere con insolenza critica? Può ancora pretendere di essere quella scintilla che cerca la polveriera, secondo le parole di André Breton, o almeno attizzare delle soggettività ribelli? Può l'arte, rischiando ogni possibile, soppiantare, spostare il reale e addirittura rigenerarlo? Nonostante l'esperienza della perdita inflitta individualmente e collettivamente dalla logica capitalistica, nonostante la desublimazione repressiva e la conseguente amministrazione totale dell'esistenza umana? Io penso sia possibile. Basti pensare agli esercizi di ricerca sulla simultaneità della percezione dei futuristi, ai criteri di casualità nella poesia dadaista, allo sconvolgimento della grammatica e della sintassi dei cubofuturisti, al linguaggio surrealista del subcosciente, alla critica radicale della società dello spettacolo sviluppata dal situazionismo o al movimento fluxus, indefinibile corrente contemporanea, che intende sopprimere le barriere che separano la vita dall'arte, cercando di dimostrare che l'arte è nella vita. Delle vere e proprie imprese sovversive che, anche se con limiti, derive e semplificazioni, invitano ad una genuina esperienza di emancipazione attraverso la realizzazione di una utopia egualitaria. E non a caso, ora, un pezzo di John Cage tra i fondatori di Fluxus. Nel 1885, in parole di un ribelle, Pierre Kropotkin, teorico del comunismo libertario, scriveva: «Lo scienziato, come il poeta e l'artista, è sempre il prodotto della società in cui si muove e insegna. Infine voi, giovani artisti, scultori, pittori, poeti, musicisti, non notate che il fuoco sacro che aveva ispirato i vostri predecessori vi manca oggi, a voi e ai vostri? Che l'arte è banale, che la mediocrità regna? Ma se realmente il vostro cuore batte all'unisono con quello dell'umanità, Se davvero poeta avete un orecchio per ascoltare la vita, allora non potrete più rimanere neutrali, verrete a schierarvi dalla parte degli oppressi, perché sapete che il bello, il sublime, la vita, infine, sono dalla parte di coloro che lottano per la luce, per l'umanità e per la giustizia. L'atto poetico come atto di resistenza, dunque, perché è alla scuola dei poeti che si apprende il coraggio dell'intelligenza e l'audacia di essere se stessi, per risvegliarsi da un troppo lungo sonno dogmatico, rimanendo sempre allerta, senza esitare. Come ammonisce Bertolt Brecht, alla cui critica dello spettacolo si rifaceva, tra l'altro, l'internazionale situazionista, in questo breve poema che dedico a tutti coloro che ancora esitano. Dici, per noi va male, il buio cresce, le forze scemano. Dopo che si è lavorato tanti anni, noi siamo ancora in una condizione più difficile di quando si era appena cominciato. E il nemico ci sta innanzi più potente che mai. Sembra gli siano cresciute le forze. Ha preso un'apparenza invincibile. E noi abbiamo commesso degli errori, non si può negarlo. Siamo sempre di meno. Le nostre parole d'ordine sono confuse. Una parte delle nostre parole le ha stravolte il nemico fino a renderle irriconoscibili. Che cosa è errato ora? Falso di quel che abbiamo detto? Qualcosa o tutto? Su chi contiamo ancora? Siamo dei sopravvissuti, respinti via dalla corrente. Resteremo indietro, senza comprendere più nessuno e da nessuno compresi. O contare sulla buona sorte? Questo tu chiedi. Non aspettarti nessuna risposta oltre la tua. E allora, come il poeta, l'artista, osiamo questo lavoro quotidiano di riflessione, di lettura, di analisi, di indagine, di discussione, di condivisione, di educazione, di dibattito, cercando di articolare pensiero teorico e stili di vita, immaginazione e modi di essere. E in questa sorta di gioco riservato al pensiero e che rende l'uomo libero, non ci sono che vittorie per chi ha saputo giocare. È un gioco che non divide, non scommette, ma che può essere capace di turbare la realtà, la moralità, l'economia del mondo, insinuandosi tra strati di rigide convenzioni, approdando a paradigmi aperti, flessibili, e forse, infine, a quel paradigma perduto, la natura umana, di cui significativamente fin dagli anni 70 parlava Edgar Morin. E allora in questo mondo grigio cerchiamo l'eccezione, il supplemento d'anima, quelle linee di fuga rizomatiche, linee spezzate, interrotte e riprese, in cui ciò che conta è il percorso più dell'origine e dell'esito, trame plurali e variabili che non hanno né inizio e né fine. Ma per mettere in discussione le convenzioni e le prassi consolidate, il modo di comportarsi, di prendere la parola e rivolgersi agli altri, di ascoltare e agire, per il momento mi pare non ci sia che un mezzo: continuare a pensare e ad imparare. E per restare in tema, ascoltiamo ancora un poema di Brecht dal titolo appunto Lode dell'imparare. Thank you. impara quello che è più semplice. Per quelli cui tempo è venuto, non è mai troppo tardi. Impara l'ABC. Non basta, ma imparalo. E non ti venga noia. Comincia. Devi sapere tutto. Tu devi prendere il potere. Impara, uomo all'ospizio. Impara, uomo in prigione. Impara, donna in cucina. Impara, sessantenne. Tu devi prendere il potere. Frequenta la scuola senza tetto. Acquista il sapere, tu che hai freddo. Affamato, afferra il libro, è un'arma. Tu devi prendere il potere. Non aver paura di chiedere, compagno. Non lasciarti influenzare, verifica tu stesso. Quello che non sai tu stesso, non lo saprai. Controlla il conto, sei tu che lo devi pagare. Punta il dito su ogni voce, chiedi, e questo perché? Tu devi prendere il potere. E vi lascio dandovi appuntamento alla prossima con questa frase di Villiers de l'Isle Adam: io non mi degno di correggere le voragini se non con le mie ali. E allora, care e cari, vogliamo alto con le nostre utopie. Ciao. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. He never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Tell what he wants to do, and he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning. See the world.